America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. That part of the response to the historic decision on the part of the UK to leave the European Union, though futures hours ago suggested that that number could have been a whole lot worse. Brexit, beh, devo dire, continuano a parlarne in America, soprattutto dopo la notizia di ieri del ritiro di Boris Johnson, una notizia a sorpresa, devo dire, gli americani erano convinti che sarebbe rimasto nella corsa alla leadership. Insomma, questa Brexit è stata una rivoluzione. Vi ho raccontato ieri di quello che ha detto Barack Obama parlando da Toronto in Canada al vertice dei tre leader nordamericani. È una rivoluzione storica per gli assetti europei e globali, sul fronte commerciale, su quello finanziario, su quello economico. Ecco, qualche tempo fa qui ai microfoni di America 24 ho fatto una chiacchierata con John Micklesworth, che è il direttore di Bloomberg, è stato direttore dell'Economist, e mi spiegava questa sua teoria del 20%, cioè che c'è sempre un 20% di probabilità che qualcosa di improbabile capiti, poi però in genere non capita. E però, come abbiamo visto, poi alla fine, il fatto che ci sia un 20% significa che su 5, 6, 10 eventi diversi magari uno poi si verifica. Ecco, Brexit si è verificato. Come sappiamo, i sondaggi dicevano esattamente il contrario. E allora, qui in America, questa cosa ha colpito molto, perché Donald Trump ne ha approfittato per saltare su Brexit e per impossessarsene. E la domanda è: ma è possibile che Trump ce la faccia davvero? Ecco, in questo caso le probabilità che riesca a vincere la presidenza oggi, parliamo di oggi, sono di circa il 40%, dunque più elevate della teoria di Micklesweat. Però il teorema del possibile ci conferma che l'evento potrebbe verificarsi. E allora avremmo una rivoluzione in America, perché non si era mai visto che un outsider miliardario potesse conquistare la Casa Bianca. Ecco, io ho con me i microfoni di America 24, Clara Bingham, che ha scritto un libro, secondo me, molto importante, oltre che essere molto interessante, Witness to the Revolution, cioè ha intervistato una gran quantità di persone che hanno fatto quella che è stata la rivoluzione culturale degli anni 60, focalizzando l'attenzione su un anno tra il 69 e il 1970, un anno secondo lei chiave. E dunque approfitto, perché questo libro è uscito da poco, è stato recensito nei giorni scorsi su tutti i grandi media americani, e dunque buongiorno Clara. Buongiorno Clara, mi senti? Mario. Hello Clara, here we are. So, bene Clara, ecco, noi sentiamo Trump che continua a dire l'America sarà di nuovo grande, ma a quale passato si riferisce Trump quando parla di questa grande America? I wonder if Trump is really talking about the Eisenhower 50s. Credo che Trump si riferisca agli anni 50 del presidente Eisenhower, quando al potere c'erano uomini bianchi e l'America era economicamente forte da un punto di vista industriale. L'immigrazione non era ancora un fenomeno rilevante e non c'erano molte libertà personali. Le donne e gli uomini di colore non avevano posizioni di rilievo, gli omosessuali non avevano diritti. Queste sono tutte cose che rendono quell'America attraente agli occhi di Trump. Potrebbe però riferirsi anche all'America di Ronald Reagan, quando sopravviveva una società conservatrice e la globalizzazione non aveva ancora avuto inizio. Quella globalizzazione che avrebbe spostato il lavoro in Asia e avrebbe rivoluzionato i mercati con le invenzioni digitali e tecnologiche. Gli stipendi erano ancora buoni e l'America era industrialmente forte. Adesso invece tutto questo è finito. Ecco, devo dire che questo è un paese che in ogni caso guarda in avanti. Ecco, non ti sembra strano che Donald Trump abbia ottenuto risultati così buoni in queste elezioni soltanto guardando al passato? Perché di fatto lui continuava a guardare al passato. La globalizzazione non può essere fermata, non si possono costruire nuove barriere commerciali. È vero, con Brexit la Gran Bretagna è uscita, ma l'Europa resta, il NAFTA resta. Eppure lui promette questo, di andare indietro. Non è strano? Ritengo sia una cosa assurda. Non possiamo tornare indietro. Un esempio: tutte le nostre industrie di acciaio si trovano a Pittsburgh, ma non si metteranno di nuovo in attività. Pittsburgh vuole andare avanti. Si sta attrezzando per diventare un centro tecnologico e digitale. È ovvio che è questo che dobbiamo fare. Pensare di riportare alla luce il carbone, l'acciaio e tutta quella industria obsoleta non solo è molto strano, ma è anche impossibile. It can never happen. Ecco, facciamo un parallelo. Che parallelo c'è tra la rivoluzione descritta nel tuo libro, insomma, quella rivoluzione degli anni 60, 70 e quella di oggi? Ecco, a un certo punto tu dici una cosa molto, molto interessante, secondo me. Cioè dici che quella rivoluzione culturale doveva essere anche rivoluzione politica, ma poi non lo è stata. È stata solo una rivoluzione culturale. Quella politica ha perso. Ecco, con Trump, con Brexit, con questa ribellione popolare, non è forse che questa rivoluzione politica sta capitando magari 40-50 anni dopo? Sì, c'è una rivoluzione sia politica sia economica in corso. Il malcontento è evidente e riguarda sia i giovani che hanno votato per Sanders, a sinistra, sia gli operai che hanno votato Trump, a destra. A prescindere dalle preferenze politiche, incarnano la medesima protesta, quella di essere stati abbandonati dalla New Economy. Tutto è cominciato nel 2008, con la crisi economica e il fallimento delle banche. È stato un periodo in cui la disparità dei redditi è diventata enorme. Siamo tornati a vivere una grave disuguaglianza economica. Ecco, com'è che si può trovare un nuovo equilibrio per recepire quello che arriva dalla gente? Magari si deve essere meno politicamente corretti, oppure si trova un nuovo equilibrio completamente nuovo, oppure andando al contrattacco di Trump? E soprattutto, pensi che Trump possa vincere? Penso di sì. La sua popolarità continua a sorprendermi. Sembra quasi che non importi quello che dica o quello che faccia. Credo che la gente voglia qualcuno che sappia risolvere i problemi. E lui ha trovato il modo di presentarsi come una persona che ha tutte le risposte. Trump trae un grosso vantaggio dalla paura delle persone, spaventate dai cambiamenti introdotti dall'immigrazione e dalla trasformazione in senso multiculturale della società. Bisogna però imparare ad abituarsi a queste rivoluzioni e bisogna farlo ora. Nel prossimo futuro ci saranno innumerevoli mutamenti sociali, sia sul piano razziale, sia su quello dei diritti per i transgender e i bisessuali. Ci sarebbero molti altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Clara Bingham, sempre con noi, microfono di America24. So what's your choice? Cosa scegli? Can we play Bob Dylan, please? Penso che sceglierò Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Questa canzone ha avuto un ruolo centrale negli anni 60. È proprio dai suoi versi che uno dei movimenti di protesta simbolo di quegli anni, i Weathermen, ha tratto il suo nome. Questa organizzazione si è battuta per i diritti della popolazione di colore, a volte ricorrendo alla violenza. Il verso a cui mi riferisco recita: «Non hai bisogno dell'uomo delle previsioni per capire da che parte soffi il vento». Loro ritenevano di sapere da quale parte soffiasse il vento. Era quello della rivolta, quello che avrebbe rovesciato il governo. Bene, allora una canzone rivoluzionaria, Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan, che ha ispirato i Weathermen. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.